Así que hemos cambiado el programa. Así lo siento. Imprimimos esto en el último minuto, pero siempre hay cambios. Es muy dinámico esto. Entonces, el cambio de programa está aquí. Lo vamos a poner donde se vea para todos. Eso significa probablemente que tenemos más talleres mañana. Luego iremos viendo lo que haga falta y entre los ponentes organizaremos quizá otra ponencia si hace falta. ¿Okay? Pero el problema para hoy es esto. Ahora estamos aquí, vais a ver la ponencia de Lemming, que es sobre el crédito de Dama. Luego hay diálogo y preguntas. Tendréis tiempo para pensar en preguntas que queréis darles. Y luego le contestará. Luego habrá una pausa con té y refrescos. Luego Muriel hablará de... ¿Tengo Muriel el título correcto? ¿Monedas regionales en Alemania? Está muy bien. ¿Está bastante bien? Okay. Algo de Alemania fantástico está pasando por ahí. Luego diálogo y preguntas, luego comida, luego organizamos los talleres. Quiero, por favor, que cualquier persona que está pensando en talleres que haga esta hojita, ¿te acuerdas? Simplemente el título, quien lo da... lo puede hacer durante la comida para tenerlo listo y presentarlo, ¿vale? Y luego hacemos un taller. Ahora voy completando esto mientras Lemming empieza. Os introduzco con Lemming y lo que no ha implantado. Tenemos un fantástico equipo aquí de traductores porque Lemming nos va a hablar en italiano, ¿vale? Y vamos a tener una traducción simultánea desde el italiano al español, que es muy difícil, yo no, ni me atrevo. Y lo va a hacer Antonio, que también tradució el artículo. Muchísimas gracias. Y Luciano, nos vamos a ayudar entre todos. No tenemos ni idea cómo va a ser eso, ¿ok? Entonces, paciencia. No lo hemos probado nunca. Empezar lo primero que se ve. ¿Ok? Y os paso. Con voi io mi chiamo Lemming Cactus e faccio parte della Federazione di Damano. Mi chiamo Lemming Cactus e faccio parte della Federazione di Damano. Sono responsabile dell'economia e della finanza e quindi anche naturalmente del credito, questa valuta complementare. Sono responsabile della economia e della finanza e anche del credito, questa unità di moneta complementare. Allora, purtroppo dobbiamo usare il nostro grandissimo e valoroso Antonio per la traduzione, perché io non parlo spagnolo, quindi... Fortunatamente ne tenete che utilizzare a me per la traduzione. Allora, adesso io vi faccio prima la presentazione ufficiale del credito. Ora prima vi faccio la presentazione ufficiale del credito. Ma poiché questo è un bel tavolo di lavoro, dopo quello ufficiale vi dico qualcosa anche di più volentieri. Come questa è una fantastica mesa di lavoro, dopo dell'ufficiale, anche voglio spiegarlo a un'altra cosa. Allora, il credito nasce 30 anni fa, oltre 30 anni fa. Il credito nasce cosa di 30 anni? E proprio all'inizio della comunità di Damano, già subito è nato il credito come sistema di valuta complementare. Allora Damano faceva poche decine di unità di persone, quindi chiaramente il giro del credito era ridotto. In questo momento in Damano solo era con poche decine di persone, entonces la circolazione di ese dinero era molto ridotta. Adesso che siamo circa 1000 come residenti all'interno della comunità di Damano, più tante centinaia che sono vicine a Damano. Ora come hai... Il sistema della valuta del credito è diventato naturalmente più importante. Il sistema del credito si è convertito in algo più importante. Anche perché oltre che utilizzarlo noi ad Amazon ci sono diverse convenzioni con tanti negozi ed attività che utilizzano il credito. A parte utilizzarlo nosotros in Damanur, hay muchos otros negocios fuera de Damanur che también hay convenios con otros negocios che también utilizzano. Allora, facciamo qualche punto sulla valuta complementare. Puoi dire alcune cose sulla valuta complementare? negli studi che abbiamo fatto noi la valuta complementare aiuta a creare fluidità in un sistema economico. La divisa complementaria aiuta a creare fluidez in un sistema economico. E pensiamo proprio che sia una valuta regionale che abbia la possibilità di aiutare l'economia di quella regione. Crediamo che sia giustamente una moneta regionale la che può aiutare a migliorare l'economia di questa regione. Quindi appunto pensiamo, come anche è stato dichiarato, lo potete anche leggere, che il denaro è un accordo fatto all'interno di una comunità che consente di utilizzare qualcosa come bene di scambio. Allora, sulla presentazione di Damano c'è anche un video che eventualmente chi ha piacere di farlo, adesso non so se tra oggi e domani vedremo come, quindi non vado a dire tutto quello che la comunità ha fatto pure prima. Come hai un video che spiega abbastanza bene tutto Damano, infatti io non voglio spiegarlo tutto ora, io a ver si después hanno la possibilità di vederlo. Allora, abbiamo oltre appunto un migliaio di persone, diverse decine di attività, di aziende. Hai un 1000 persone, sì, distinte attività, decine di attività differenti. Abbiamo tante attività di associazioni, oltre 30 attività di associazioni. Hai più di 30 attività di associazioni. Diversi centri dove sono sparsi in Italia e nel mondo. Vari centri in Italia e nel mondo. Dove anche lì usano la valuta complementare, il credito. E lì anche utilizzano la divisa complementare, il credito. Però l'attività prevalente viene fatta proprio a Damano, dove è la sede storica. Però l'attività più importante si sigue facendo nella sede storica di Damano. In 5 paesi. In 5 paesi. Abbiamo le attività prevalenti sia di residenza che di attività produttiva. In questi 5 paesi hai l'attività produttiva e di residenza también. Allora, per chi non conosce dove Damano è a nord di Torino, a 45 km. Per los que no sepan dónde se encuentra Damanur, sta a nord di Torino, a 45 km a nord di Torino. È una zona dove storicamente è stata abbastanza in depressione industriale, post-industriale. È una zona dove tradizionalmente è stato in depressione post-industriale. Qualcuno forse ricorda la Olivetti, che era un computer. Non so se vi ricordate della impresa di ordinatori Olivetti. Dove aveva sede proprio in Ivrea, che è molto vicino ad Amago. Che tenia la sede in Ivrea, che sta qui cerca di Damano. Quindi la Val Chiusella, dove appunto è insediata Damano, una volta faceva 50.000 abitanti, adesso ne fa poco più di 5.000. Quindi la Val Chiusella, che è il valle dove sta Damano, anteriormente tenia 5.000 abitanti, e ora solo hai 50.000 abitanti, e ora solo hai 5.000. Quindi era sicuramente importante creare un'iniziativa produttiva ed economica. Tutto era molto importante creare un'iniziativa economica e produttiva. Ed è stato anche di ottimo vantaggio avere una valuta complementare come il credito. Ha aiutato molto, è stata una vantaggio lo di tenere una divisa complementare come il credito. Importante, lo dirò poi dopo nella visione non ufficiale, e anche quali sono le attività, perché nella valuta complementare è decisamente importante capire quanto si è autosufficienti. Entonces, io os explicaré después en la versión no oficial sobre el tema de las actividades, pero también es muy importante todo esto para comprender lo importante que es una moneda complementaria de cara a la autosufficienza. Per cui sapere che ci sono 500 ettari di terra e più di 100 attività economiche e fa parte del disegno della valuta complementare. Hai come 500 ettari di terra e più di 100 attività. legale e fiscale. También tenemos que enfrentarnos a la parte contrattuale, fiscale e legale. Qui nel video non c'è scritto perché forse ha detto poi tecnici, ma visto che qui presumo che ci siano anche interessi di questo tipo, lo dirò. Nel video non lo pone, però ya lo spiegherò. Allora, dal punto di vista legale e in termini valuta complementare, come già diceva Stella, mi sembra ieri, è molto importante proprio per un approccio legale, perché non si deve nominare la moneta. Entonces, desde un punto de vista legal, lo de hablar de moneda complementaria es bastante importante porque no hay que nombrar el tema de la moneda. Quindi dobbiamo proprio imparare a chiamar la valuta complementare per essere legalmente a posto. Entonces, hay que llamar una divisa complementaria para estar correctos, ser correctos desde el punto de vista legal. Il discorso, anche sempre legale, con chi non fa parte di un gruppo, nel nostro caso della comunità di Downlo. Il discorso legale también es importante para la gente que no es parte del gruppo di Downlo. E di avere un contratto con chi utilizza il credito. Entonces, tener contratos con los que no utilizan el crédito. In più, l'utilizzo della valuta complementare, appunto il credito, inoltre. Tiene una actividad de crédito junto a la Manur, tiene un contrato previo para actuar en esta actividad de crédito. No lo hace sin contrato, no es siempre de la misma comunidad. No. ¿Comprende? La base del credito è sicuramente di origine solidale. La base del credito è di origine solidaria. Infatti con il credito noi abbiamo anche delle coperture dei fondi di solidarietà. Attraverso il credito también tenemos fondo di solidarietà. Nel caso specifico fondo per infortuni e di pensione. Abbiamo fondi per infortuni e pensioni. Avendo ormai la storia, perché sono ormai 32 anni di Damalo. Todo esto es como historia, ¿no? Porque llevamos como 32 años, ¿no?, de existencia de Avanur. I ragazzi giovani di allora cominciano a essere meno giovani. Entonces los jóvenes de entonces ya no son tan jóvenes. Poiché noi abbiamo sempre messo in condivisione tutto quanto. Y como siempre hemos compartido todo. È stato giusto anche prevedere nel futuro un fondo proprio per garantire una pensione ai damanuriani. Fue bueno prever un fondo, diciamo, de cara al futuro para prever la pensión de la jubilación de los damanurianos. E poi un fondo di solidarietà nell'ipotesi di infortunio, nell'ipotesi in cui persone si facciano male e così via. Y un fondo de solidaridad en el caso de que alguien se haga daño, se ponga enfermo. In origine il credito valeva, in rapporto con una lira, 1000 lire un credito. Inizialmente la relazione del credito con la moneta ufficiale italiana, la lira, era di un credito valía 1000 liras. E lì proprio nel tavolino d'entrata avete la possibilità di vedere due tipi di coni. Entonces, ahí en la mesilla che sta all'entrata ha la possibilità di vedere due tipi di monete acuñate. Quello tutto in argento, siete in pochi a vederlo perché ormai è stato rimpiazzato dall'altro conio. Che sta in plata ya hay muy pocos porque ya prácticamente ha sido sustituito por otra cuñadura. Perché era fatto tutto a mano e quindi insomma abbiamo dovuto sostituirlo per questioni di volume. Entonces eso se hacía todo a mano, entonces tuvimos que sustituirlo per questioni di volume. Quindi adesso quello che vedete lì in argento viene tenuto molto stretto da chi ce l'ha e non lo mette in circolazione. Los que están en plata, ahora ya la gente se lo queda y se lo queda muy bien, no lo suelta. Poi nel tempo è cambiato anche la conversione, è passata prima a 1100 lire e poi a 1200 lire. Pero también con el pasar del tiempo cambió esta conversión, prima valió 1100 lire, después 1200 lire. fino ad arrivare nel 98 quando è stato convertito con un credito, un euro. Hasta llegar a 1998, donde appunto se con un euro valiamo un credito valiamo un euro. Un piccolo approccio, ci siamo fatti delle riflessioni sul valore del denaro. Mi è piaciuto anche che in questo workshop di ieri c'era l'idea appunto della psicologia del denaro. Hemos hecho algunas reflexiones sobre el valor del dinero. Me hizo gracia ayer que hablábamos sobre el tema de la psicología del dinero. Y para hacer propio solamente un título a lo que hemos llegado. Y solo para hacer como un título a lo que hemos alcanzado. Abbiamo visto que el denaro en esta época es la espada para combatir. Hemos visto que en esta época el dinero es la espada para luchar. E quindi quello che può essere demonizzare il denaro fino a se stesso. Lo che potrebbe essere come lo demonizzare il denaro come finalizzato a sí mismo. L'abbiamo risolto perché sappiamo con certezza come viene speso il credito. Lo abbiamo soluzionato perché sappiamo con certezza di come si gasta il credito. E perché noi ci teniamo molto che ci siano investimenti a finalità etica. Perché tenemos muy claro, nos gusta mucho que haya inversiones con finalidad ética. Porque possiamo nei nostri numeri con certezza sapere a chi diamo gli investimenti per fare cosa. Porque luego haciendo los números que podemos saber con exactitud a quién damos el dinero. Para hacer qué. Adesso do qualche dato così pratico, così avete anche una misura delle cose. Entonces, os voy a dar algunos datos prácticos para que tengáis un poco la medida de las cosas. Dunque, nei negozi sia di Damanhur che di fuori Damanhur. Entonces, en las tiendas tanto de Damanhur como de fuera de Damanhur. Si va semplicemente con il credito a fare gli acquisti. Entonces, se va con el crédito para hacer las compras. Ci sono anche dei vantaggi nell'acquisto in credito. También hay unas ventajas en comprar con créditos. Nelle nostre attività all'interno facciamo uno sconto all'acquisto del 5%. En nuestras actividades internas hacemos un descuento a comprarlas del 5%. E le attività esterne, cioè non quelle damanhuriane. Mientras la, en cuanto a las actividades externas, o sea, las que no son realizadas por gente de Damanhur, normalmente fanno degli sconti maggiori. Normalmente se hacen unos descuentos mayores. Perché comunque noi, essendo in tanti, siamo clienti. Y porque nosotros, como somos muchos, somos clientes. Quindi viene spesso e volte accordato anche sconti anche intorno al 10%. Y a menudo también se llega a hacer descuentos hasta el 10%. Poi i negozianti riconvertono il credito in euro. O los tenderos reconvierten el crédito en euros. Normalmente a un mese. A un plazo de un mes. Viceversa invece all'interno di Damanhur noi abbiamo sempre i crediti in tasca e ovviamente spendiamo i crediti. Mientras que internamente a Damanhur siempre tenemos los euros en el bolsillo, entonces vamos gastando esos. Quindi andiamo a fare la spesa con i crediti, prendiamo il caffè in crediti. Vamos a hacer la compra con los créditos, vamos a tomar el café con créditos. Eccetera, eccetera. Volevo accennarvi già qualcosa. Aspettate che vi dico una cosa. Vedete, abbiamo anche dovuto affrontare dei problemi tecnici. También hemos tenido que enfrentarnos a algunos problemas técnicos. Mettendo queste macchinette cambio credito. Poniendo esas máquinas de cambio de créditos. Cioè semplicemente si mettono dentro gli euro ed escono i crediti. Entonces se ponen los euros y sale el crédito. Ce ne sono un po' in sparsi in Damanhur. Hay unas cuantas por Damanhur. Soprattutto nei punti più commerciali, come per esempio la Damanhur Crea, che è una struttura commerciale. Specialmente in los puntos comerciales como Damanhur Crea. Abbiamo fatto anche nel tempo delle convenzioni con delle banche esterne. Abbiamo fatto convegni con banche esterne. Una volta avevamo preso una banca che aveva fatto uno sportello apposta per il credito. E una vez incluso un banco che hizo una ventanilla solo per il credito. Poi nel tempo ci siamo sempre più strutturati noi come finanza. Y con el tiempo nos hemos ido estructurando nosotros como finanzas. Fino a construir la nuestra financiera que de facto sustituye a la banca. Hasta que llegamos a construir nuestra empresa financiera que de hecho sustituye a los bancos. Yo adesso vi direi ancora qualche cosa di tecnico. Yo os voy a comentar algunos detalles técnicos más. Allora, vediamo ancora qualche cosa, così che concludiamo la presentazione ufficiale, con la Dama Norcrea. La Dama Norcrea è una struttura industriale recuperata. La Dama Norcrea è una struttura industriale recuperata. Dove è di 2.500 metri quadrati. Di 2.500 metri quadrati. E abbiamo messo tantissime attività all'interno della Dama Norcrea. Entonces hemos introducido muchísimas actividades en Dama Norcrea. Poi magari adesso non voglio divulgarmi sulla presentazione di Dama Norcrea, ma esistono nello specifico del credito. Entonces no quiero alargarme demasiado sobre lo de Dama Norcrea, sino que quiero hablar un poco más del credito. Chi vuole ha piacere di conoscere di più con il video, col DVD può conoscere tutto. Entonces a través del video, del DVD es posible conocer todo lo demás. Qualche dato tecnico. Un dato tecnico. Attualmente abbiamo emesso circa, con l'ultimo conio, 350.000 crediti. Con l'ultima acuñada di dinero sacamos como 350.000 crediti. Però il numero è fino a se stesso in termini assoluti. Entonces, in termini assoluti il numero solo sta finalizzato a sé mismo. Perché dipende dalla velocità di circolazione del credito. Perché dipende dalla velocità di circolazione del credito. La potenzialità di acquisto e di creare economia. La potenzialità di acquisizione e di creare economia. Quindi i 350.000 sono attuali, ma potrebbero sicuramente aumentare. Entonces, 350.000 sono los che hai, però potrebbero aumentare. In particolare pensiamo che uno sviluppo importante per il credito sia la finanza. Ma se in concreto creemos che un desarrollo specifico per il credito sia quello della finanza. In quanto abbiamo avuto un problema qualche anno addietro. Ya que hemos tenido un problema hace algunos años. Abbiamo fatto degli investimenti massicci. Inversiones masivas. Esponiéndonos con las bancas externas. Exponiéndonos con los bancos externos. No tenemos problemas de las bancas externas porque tenemos tantas que quieren invertir con nosotros. No tenemos problemas con los bancos externos porque hay muchas de ellas que quieren invertir con nosotros. Pero nosotros queremos mantener la autonomía propia por una cuestión de rapporto ético con el denaro. Pero nosotros queremos mantener una independencia, una autonomía por razones de relaciones éticas con el dinero. Dovendo restituire gli investimenti delle banche in euro, teniendo che devolver las inversiones de los bancos en euros, va da sé che quando è ora di pagare le rate, está claro, ¿no?, que a la hora de pagar los plazos, occorre avere gli euro per restituire. Hace falta tener euros para devolver. E questo crea una situazione non organizzata di economia. Y eso crea una situación de economía que es non è organizzata. Ecco la ragione per cui abbiamo costituito la nostra finanziaria. E questa è la ragione per la quale abbiamo costituito la nostra finanziaria. Che si chiama? Finanziaria. Che si chiama DES. Che si chiama DES. Che in lingua sacra vuol dire intenti puri. Lingua sacra? È una lingua che usiamo noi, lingua sacra, come si traduce? No, no. Vuol dire intenti puri. Vale, che in la lingua sagrada quiere decir intentos puros. Ed è strutturata in questa maniera, c'è una cooperativa di raccolta. Entonces, hay una cooperativa de recolección. Esa es la manera en que está estructurada. Una cooperativa de recolección. Una o più cooperative di raccolta. Una o más cooperativas de recolección. C'è la possibilità di versare sia in euro che in credit nella cooperativa. Entonces se puede ingresar tanto en euros como en créditos en la cooperativa esa. Poi c'è un'altra cooperativa che invece è una finanziaria vera e propria. Luego hay una otra cooperativa que es una financiera verdadera. Che finanzia le cooperative. Che finanzia le cooperative. Le associazioni. Le associazioni. E le società di mutuo soccorso. E le società di appoggio mutuo. Cooperative e associazioni, voi sapete cosa sono. Ya sabéis lo que son las cooperativas y las asociaciones. Las sociedades de mutuo socorro son de las sociedades. Entonces las sociedades de más que apoyo mutuo son de socorro. Finalizzate a sostenere il singolo, la persona. Con la finalidad de apoyar a la persona individual. Nello specifico dándole dei soldi. Específicamente concediéndole dinero. La cooperativa de raccolta, la cooperativa de financiamiento. Cooperativa de recolección y de financiación. Hanno un rapporto di conto corrente. Tiene una relación de cuenta corriente. Che permette di travasare il denaro dalla cooperativa di raccolta alla cooperativa che finanzia. Che permette di traspassare dinero dalla cooperativa di recolección alla cooperativa che finanzia. In questo modo è possibile fare un'attività completa di banca. De esa manera es posible hacer una actividad completa. De banco, pur non essendo banca, sin ser banco, perché solo la banca, e so che anche in Spagna è così, perché solo il banco, e credo che anche in Spagna è così, può raccogliere denaro e prestare denaro, può recoger dinero e prestarlo, se no si può o solo raccogliere denaro, no, se può o solo recoger dinero, o solo prestare denaro, o solo prestar dinero. L'invenzione è congiungere queste due realtà. Y la intención es de conectar esas dos realidades. Questo è fatto, ci è voluto diversi anni per fare questa struttura. Hemos tardado muchos años en hacer. Soprattutto per lavorare con la Banca d'Italia, la banca di missione italiana. Especialmente para trabajar con el Banco de Italia, que es la banca italiana que emite. Per avere le autorizzazioni. Y para conseguir las autorizaciones. Il termine tecnico è finanziaria di gruppo. El término técnico es financiaria del grupo, o financiera. Qui sarà interessante capire se in Spagna si può combattere come abbiamo fatto in Italia e arrivare allo stesso obiettivo. E entonces sería interesante saber si en España también se puede luchar, ¿no?, para conseguir ese objetivo. Non ho detto una cosa importante. È una cosa importante che mi hai detto? Vabbè, delle finalità etiche l'ho già detto prima. Lo delle finalità estetiche sì, l'ho commentato. Ovvero sia che noi sappiamo come viene investita la valuta. Sappiamo come si invierte la divisa. Noi abbiamo anche però una lettura magica della valuta. También tenemos una lectura mágica della valuta, della divisa. E questa lettura magica, diciamo, nella sua circolazione porta anche d'analogo. Y esa divisa mágica en su circulación también lleva a Damanhur. Dalla nostra esperienza abbiamo visto che è la soluzione migliore per un bioregionalismo. Desde nuestra experiencia hemos visto que es la mejor solución para el bioregionalismo. Ci sono tanti accorgimenti anche per renderla nel tempo comunque in tono. Bueno, hay muchas maneras. Ci sono tante cose da fare per tenere la valuta in tono, vuol dire, diciamo, che sia sempre in sicurezza, che sia sempre. Entonces, hay muchas cosas por hacer para mantener la divisa, pues, siempre en buen estado, ¿no? E tra cui anche quella di riuscire a essere sempre pronti alla conversione. Y una de estas es estar siempre preparados para la reconversión. Porque claramente puede ser un elemento delicado. Eso puede ser un elemento muy delicado. Y que fa perder la fiducia al crédito. Y que puede hacer perder la confianza en el crédito. Quindi ci sono sempre delle riserve apposite. Siempre hay unas reservas preparadas. Di forte liquidità per qualsiasi richiesta immediata di riconversione. de liquidez para cualquier necesidad inmediata de reconversión. Noi abbiamo visto che con il credito sicuramente aumenta la fluidità dell'economia. Hemos visto que con el crédito aumenta seguramente la fluidez de la economía. Perché ha un devo fare una premessa economica. Tengo que hacer una premisa económica. Qualcuno sa cos'è Bretton Woods? Sabe alguien conoce a Bretton Woods? E quando in pratica non c'è stato più l'obbligo di convertire la moneta in oro. Un acuerdo según el cual no, ya no hubo la obligación de convertir la moneda en oro. Mi sembra sia nel 57, se no ricordo. Poi creo que era el 57. Quindi vuol dire, vi dico i dati della Banca d'Italia. Lo que me dicen los datos del Banco de Italia. Que la Banca d'Italia ha il 7% di riserve. Que el Banco de Italia aún tiene el 7% de reservas. Di questo 7% una parte in oro, una parte in divisa. De ese 7% una parte sta in oro e l'altra in valuta. Le valute a sua volta non hanno l'oro dietro. E le divise tampoco tienen l'oro detrás. E quindi praticamente noi teniamo gli euro in tasca solo perché abbiamo fiducia. E praticamente nosotros estamos utilizando los euros porque confiamos. Perché di fatto se noi andiamo in qualunque banca e diciamo adesso voglio l'oro, non ce lo danno. Perché se vamos a qualche banco e pedimos che queremos l'oro, non nos van a dar l'oro. Magari ci danno del dollari, ma è esattamente la stessa cosa. Comunque ci danno dollari, però è esattamente lo stesso. Quindi bisogna con questo concetto anche nella valuta complementare fare un piccolo pensiero. Entonces, in quanto alle monedas complementarias, teniendo en cuenta esto, tenemos que pensárnoslo un poco. Intanto sapere qué patrimonio c'è dietro la valuta complementare. Entonces tenemos que saber qué patrimonio hay respaldando la divisa complementaria. Poi sapere quanta valuta complementare è in circolazione. Hay que saber cuánta divisa complementaria está circulando. E qué economía está creando. Y qué economía está creando. Avendo questi dati. Teniendo estos datos, è possibile quindi calcolare delle riserve. Es posible calcular unas reservas per la conversione. Para hacer una conversión. Più aumentano i numeri, cuanto más aumentan los números, più l'economia comunque è solida, más es sólida la economía, minore è la riserva. Menor es la reserva. Adesso le domande mi hai detto Stella che le fanno tutte dopo, giusto? Sì, io direi di sì. Cioè potremmo ancora dire tante altre cose, ma andiamo sempre più nello specifico. Possiamo fare dare domande a Lemmy, però prima fare lo spunto di ieri per ir pensando un po' per ti, per pensare in alta voce a che domande quieres dare, ok? Se tienes delle domande. Le persone che non quieren dire una domanda così in frente a tutto il gruppo la pueden scrivere e darla a me e luego lanceremo tutte le domande, le scriveremo e Lemmy la contesterà poco a poco nel ordine che quieren. Y esto es tu contacto, si lo queréis, está aquí, ¿vale? Entonces, ¿se coges las cuatro personas? Hay algo de lo que he estado traduciendo, que a lo mejor no se ha entendido. Eso puede ser una de las preguntas, ¿no? Muy bien. Primero, me olvidé una cosa muy importante. Sara se pegó todo ayer y esta mañana traduciendo esto del inglés al español también. Y Antonio, porque media hora traduciendo te fríe el cerebro, tenemos que cuidarlo mucho ahora. Porque... Gracias. Ok, podemos hacer esto, va pensando en cualquier cosa que te se ocurre, ok? Y escucha bien a la persona que está hablando y toma turno, ok? Escribe las preguntas que quieres y luego le pasamos el micrófono. Hacemos unos 5 minutos de esto, ¿vale? Para refrescar un poco el cerebro.